Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Una buona serata da Bari, sono particolarmente contenta di essere in questa città perché è la mia città. Siamo in diretta dalla Fiera del Levante di Bari per parlare naturalmente di scrittori, perché questo facciamo normalmente del cacciatore di libri. Questa, dicevamo, è una puntata speciale che così abbiamo pensato di intitolare Dalla Puglia con furore. Perché? Perché ovviamente qui a Bari, alla Fiera del Levante, non possiamo che parlare degli scrittori baresi, ma in genere degli scrittori pugliesi. Ospiti di questa nostra puntata speciale, il cacciatore di libri, Donato Carrisi, un giallista, si può dire thrillerista? Donato? Ma guarda, se non si può dire, lo diciamo noi. Tanto possiamo inventare, mi piace questa cosa, sì, thrillerista. Thrillerista va benissimo. Perché il giallo non è uguale al thriller, non è uguale al noir, quindi Donato Carrisi, ve lo ricorderete tutti, l'autore di Il Suggeritore, che solo in Italia, pensate, ha venduto 250.000 copie e a gennaio di quest'anno è stato pubblicato anche negli Stati Uniti. Poi ha scritto Il Tribunale delle Anime e l'ultimo, di qualche mese fa, La Donna dei Fiori di Carta. Ma siamo anche in compagnia di una giallista, in questo caso giallista, giallorosa possiamo definirla, Gabriella Genisi, che è barese doc. Sì, della provincia. Della provincia, non si esprime. Orgogliosamente della provincia. Vabbè, allora diciamola questa provincia, sì, di dove sei? Provincia di Bari. Sì, ecco, provincia di Bari, che paese Mola precisamente? Di Bari. Mola di Bari, che conosciamo benissimo. Gabriella, dicevamo, è autrice di Gialli Rosa, l'ultimo pubblicato da Sonzogno si intitola Uva Noir e fa parte di una trilogia di cui la protagonista è sempre la stessa, Lolita Lobosco, che è una commissaria che opera appunto nella città di Bari. Ricordiamo gli altri titoli, Giallo Ciliegia e La Circonferenza delle Arance, poi ci spiegherai perché, insomma, tutti questi titoli dal sapore di frutta. Devi parlare più vicino al microfono, Gabriella, se no non ti sentiamo. E last but not least, si direbbe, Francesco Marocco, autore di Mai innamorarsi ad agosto, pubblicato da Fandango. Di questo giovane scrittore avevamo già parlato qualche anno fa, quando aveva pubblicato, credo, La tua prima cosa, vero Francesco? Sì, era una raccolta di racconti edita dalla Meridiana. Ecco, che si intitolava L'estate in cui il Bari comprò João Paulo. Quindi, insomma, noi del cacciatore di libri, anche se all'epoca non si chiamava ancora così, possiamo dire noi di Radio 24 ti abbiamo scoperto prima di altri. Sì, è vero. Ti abbiamo tenuto a battesimo. Allora, qui alla Fiera del Levante di Bari non possiamo che parlare, come dicevamo prima, di Puglia, di Bari e di quello che succede a livello di fermento culturale in questa regione. È un periodo in cui parecchi scrittori arrivano dalla Puglia. Donato, tu sei nato a Martina Franca, provincia di Taranto, ma ormai abiti a Roma. Quanto sei ancora legato alla tua terra? In che modo? Ma guarda, sono legatissimo perché qui vengo a scrivere. In realtà è proprio questa la fonte di ispirazione, anche se poi le mie storie non sono affatto ambientate, insomma, in questo territorio, però è da qui che nascono i miei personaggi, perché io riesco a prendere in prestito dei caratteri di persone che incontro quotidianamente e a trasferirli sulla pagina. Ed è uno specchio che è diventato indispensabile. Ho un piccolo trullo vicino a Martina Franca, tant'è che io sono solito dire che non scrivo thriller, scrivo truller, appunto per il fatto questa che non è mai. Mi serve di questa ambientazione. Donato Carrisi, autore di truller. Appunto, e lì nasce tutto. Ho proprio sistemato, insomma, tutte le stanze di questa casa in modo tale che contribuiscano alla nascita del romanzo. Ogni stanza ha una funzione, in ogni stanza si svolge l'azione di un personaggio e quindi è come se i personaggi alla fine abitassero con me. Quindi Il Suggeritore tu l'hai creato nel trullo? Esattamente. Il tuo best seller, possiamo definirlo così, sì. L'hai creato nel trullo? Sì, è stato. Questo forse non lo sa nessuno, insomma. No, guarda, l'hai dichiarato già. È una cosa che dichiaro spesso, adesso non voglio fare assolutamente, ma è una cosa che dichiaro spesso, che piace tantissimo, ma sai, è un po' il ritorno alle origini, uno non può dimenticare da dove è venuto, anche se poi ambienta la sua storia, che ne so, in Alaska, per esempio, non può dimenticare l'origine del suo linguaggio, del suo modo di vedere la vita, del suo modo di vedere le cose, anche se non entreranno mai personalmente personaggi baresi magari. Certo, certo. Però insomma ti ispiri a persone che tu conosci personalmente per delineare il carattere dei tuoi personaggi? Ecco, guarda, mi piace tantissimo un'espressione che è stata utilizzata da un grande amico scrittore un po' di tempo fa, vale a dire che gli scrittori viaggiano tutti in seconda classe. Perché? Perché in seconda classe avviene la vita, certo. In prima classe no, c'è un distacco assoluto, i personaggi non vivono in prima classe e quindi di conseguenza anche gli scrittori. E come si vive in seconda classe? Non dimenticando da dove si viene, cioè da dove sono nate le prime idee, quando ancora nessuno ti considerava, quando ancora nessuno ti pubblicava, quando nessuno voleva leggere, a parte parenti, amici stretti, magari sotto una minaccia specifica, e devi ricordarti questo percorso. Se non te lo ricordi, non ti ricordi neanche la genesi delle tue storie, e se non sai da dove vengono le tue storie, non le troverai mai. E soprattutto non riescono ad appassionare anche il lettore, perché se non hanno, come dire, un fondo di verità le storie e i personaggi, poi non si riescono neanche a seguire nella lettura. Esattamente, ma guarda, più il fondo di verità più che altro deve avere lo scrittore. La storia può anche essere una storia totalmente di fantasia, ma lo scrittore deve rimanere un po' ancorato alla propria realtà e metterne sempre un pezzettino, mai dimenticarsi questa cosa. Se vai a cercare le storie altrove, finisci col rubare le storie degli altri, poi devi mettere una parte di te, e ovviamente la parte di te la trovi dove sei nato, dove sei cresciuto. Passiamo a Gabriella Genisi, che ha deciso proprio di ambientare al momento tutti i suoi Gialli Rosa a Bari. Di Gabriella avevamo già parlato quest'estate sempre nel Cacciatore di Libri a proposito dell'ultimo romanzo Uva Noir. Ci ricordi brevemente chi è la protagonista dei tuoi romanzi Lolita Lobosco? Sì, Lolita è un personaggio femminile a tutto tondo, quindi una autentica donna del sud, già dall'iconografia, quindi molto bella, alta. Le donne baresi sono quasi tutte belle. Che bello! Posso dire di essere nata a Bari. Alta e formosa. Ecco, questa no, però vabbè. Sì, capelli lunghi, occhi profondi, perché sai, con la dominazione araba che c'è stata qui. Quindi una donna molto affascinante, sì, insomma. E lei fa il commissario. Sì. Però diciamo le sue indagini sono sempre condite dalle sue disavventure sentimentali. Sì, anche perché lei è un commissario politicamente scorretto, difficilmente segue le regole che bisognerebbe seguire e segue molto il cuore. Quindi i libri sono sempre su un doppio binario personale e lavorativo, e spesso si incrociano queste cose. Come poi è la vita, insomma. Sì, lei però non è fortunatissima in amore, quindi no. È sempre alla ricerca di questa, della felicità. È una Bridget Jones in divisa. Senti, Francesco Marocco, autore di Mai innamorarsi ad agosto, pubblicato da Fandango, il tuo romanzo non è ambientato a Bari, è ambientato così in una città ipotetica, non ha delle definizioni particolari. Come mai hai deciso di lasciarla così semplicemente tratteggiata la città? Perché è un romanzo la cui vicenda principale si svolge all'interno di un ministero, del Ministero dell'Ambiente, dove il protagonista è un borsista precario. E mi interessava soprattutto portare l'attenzione sugli spazi interni, sul tipo di persone, quindi di personaggi che pullulano in questi luoghi. Si intreccia la vicenda lavorativa, anche una vicenda calcistica che vede appunto il protagonista. Il protagonista che ama appunto giocare a calcio e che finisce per creare una squadra di calcio al ministero. Sì, in realtà gli viene quasi obbligato a partecipare con una sorta di ricatto. Se lui partecipa a questo torneo di calcio, questa famigerata liga interministeriale, gli viene offerto il miraggio del posto fisso e quindi lui sarà costretto a prendere. Questo è un ricatto l'anima. Però bellissimo. Cioè, in cambio del posto fisso, creare una squadra di calcio. Carrisi, a te piacerebbe il calcio proprio? Non fa per te? No, guarda, mi piace tantissimo. Io sono un amante dei racconti del calcio, sono un amante di Soriano, e insomma mi piace anche quando il calcio triste, solitario, i final, ma vabbè, cioè il rigore più lungo del mondo, l'Estrella Polar, che era anche il nome della mia squadra al Fatta Calcio. Infatti non ho mai vinto con l'Estrella Polar. Porta male. So. Guarda, ma ti dico, sono molto affascinato dalla trasposizione del calcio in forma letteraria, perché ritengo che sia una delle cose più presenti nella pancia di ciascuno di noi, non nel cuore. Ci sono delle storie che nascono dal cuore e altre che nascono dalla testa. Ecco, il calcio è una cosa di pancia e che tutti possono capire, anche i non tifosi. Beh, ricordiamo Febbre a 90 di Nick Hornby, lo scrittore inglese che aveva avuto un successo straordinario raccontando appunto tutta la sua passione di protagonista e nello stesso tempo scrittore per il calcio. Adesso diamo la linea alla viabilità per sentire un po' che cosa, com'è la situazione in questo momento nel traffico, e poi parleremo ancora di scrittori pugliesi in diretta dalla Fiera del Levante di Bari. Il cacciatore di libri. Riprendiamo a parlare di scrittori pugliesi perché siamo alla Fiera del Levante di Bari. Si parlava prima di scrittori di libri e di calcio, e Gabriella Genisi, che scrive appunto questi gialli rosa, ha nel suo calderone, diciamo pronto, quasi pronto, un romanzo che ha a che fare appunto con il calcio. Sì, sarà il nuovo episodio di Lolita, appunto, si chiamerà Delitto al 90° perché l'indagine del calcio scommesse nasce proprio qui a Bari, e il Bari è uno dei protagonisti purtroppo di questo calcio scommesse. Sì. E per cui Lolita sta indagando, ci saranno due delitti che sembrano completamente slegati da questo mondo, invece poi, anzi, sarà proprio lei la scopritrice del calcio scommessa. Beh, è un tema tra l'altro che va molto anche fra voi giallisti. Va molto tra i giallisti, ma va molto qui anche a Bari, perché il calcio è sentitissimo e diciamo che siamo tutti gli zii di Cassano, per cui ci sentiamo zii di Cassano. Tra l'altro in questi giorni sta succedendo una cosa molto carina a Bari, perché proprio per riavvicinare la squadra, che diciamo un po' deluso quando è rimasta mischiata in questa vicenda, la società ha deciso di far allenare i calciatori in giro per Bari, quindi per crono 5 chilometri si allenano per le strade, per Bari Vecchia. Questa è una cosa molto carina, è molto perché, bello, sì, perché riavvicina un pochino il pubblico, il pubblico tifosi al calcio. Francesco Marocco, tu scrivi spesso di calcio, perché insomma nella prima raccolta di racconti parlavi appunto l'estate in cui il Bari comprò João Paulo. In questo parli di un calciatore costretto a fare la squadra ministeriale. Insomma, il calcio ti appassiona? Sì, è un po', penso che sia una metafora lì là poi delle sporcizie che spesso vengono fuori, però insomma, quando quella palla che rotola è sempre capace, appunto, come diceva Donato, di suscitare grandi movimenti di pancia, quindi credo che sia l'opportunità anche per parlare d'altro, oltre ad avere una dimensione estetica del gesto atletico che io trovo bellissima, che credo contenga già una poesia che poi è bello andare a cercare con le parole. Un giro di domande velocissimo a tutte e tre. Secondo voi esiste un po' una Puglia terra di scrittori, o insomma queste definizioni sono un po' limitative, non ha senso parlarne in questo contesto? Donato Carrisi. Ma non è soltanto una terra di scrittori, io penso sia soprattutto una terra di storie in questo momento. La Puglia ha molte storie da raccontare. Il fatto che ci siano degli scrittori che poi mediano queste storie verso il pubblico mi sembra un effetto quasi naturale, se vogliamo, e questo dovrebbe stimolare a riflessione, una riflessione un po' più profonda su questo sud, sul sud della Puglia, di cui io mi vanto sempre tantissimo, del fatto che la Puglia sia riuscita forse a fornire un modello diverso di sud. Non me ne vogliano gli altri abitanti del sud Italia, però la Puglia in questo momento è un modello forse da seguire, un modello anche di progresso, e si vede, e probabilmente il futuro dovrebbe passare da qui. Secondo te un ambiente come la Fiera del Levante, adesso vabbè, ancora piena di gente, però come spazio vuoto, può essere un bell'ambiente dove ambientare un thriller? Sì, magari d'inverno. Qua col freddo, vicino al mare, col vento. Non fa mai freddo. Beh, insomma, il vento gelido di Bari ogni tanto c'è, su via. Sì, no, guarda, sarebbe un'ottima ambientazione quella degli spazi della Fiera del Levante, nonostante tutto quasi claustrofobica, nonostante la grandezza, quasi claustrofobico come thriller, perché quando non ci sono persone in giro, chiaramente tutto diventa molto più allarmante. Ricorda Shining un po'. Ecco, bravo, hai capito. Vabbè, insomma, se Donato Carrisi scriverà un thriller ambientato alla Fiera del Levante, sappiate che l'idea è venuta qui negli studi di Radio 24. Gabriella Genisi, per te esiste, come dire, un filone pugliese di letteratura? Dunque, la Puglia non ha mai avuto una grandissima tradizione letteraria per tantissimi anni, soprattutto la provincia di Bari, perché se ci spostiamo verso Lecce o verso Foggia c'è una tradizione più forte. Credo che la Puglia abbia ritrovato la voglia di raccontare dopo lo sbarco del Vlora nel 1991. Probabilmente tutte queste 20.000... Lo sbarco della nave, ricordiamo, sì, quando arrivò la nave carica di albanesi che furono poi chiusi nello stadio della Vittoria. Esatto, insomma, quindi queste 20.000 storie che poi si sono riversate sulle strade baresi, ma pugliesi in generale, credo che abbiano fatto rinascere la voglia di raccontare, fatto nascere addirittura la voglia di raccontare storie dure, pesanti. Sì, di raccontare, sì. Anche perché la Puglia non è soltanto quella che si percepì, soprattutto che si percepiva all'epoca e in tutto il resto dell'Italia. Quindi è nata questa voglia di raccontarsi, di scrivere, di raccontare, di dire quello che accade qui. Francesco Marocco, per te esiste una letteratura pugliese o no? Sì, io ne sono convintissimo. Credo che in Puglia ci sia tanto fermento, ci sia tanta narrazione. A volte si parla della Puglia come la caffeina d'Italia. Credo che sia un'immagine che sintetizza perfettamente il tipo di fermento che stiamo vivendo. Credo anche che ci sia da parte di una generazione, che è quella forse nata negli anni 70, in cui credo gli esponenti principali siano Mario Desiati e Nicola Lagioia. Come no, certo. Che ha avuto anche la capacità di portare l'impegno civile, anche da un certo punto di vista politico, nella letteratura. Credo che sia un avvicinamento fondamentale per una generazione che invece nasce allontanata dalla politica e, diciamo, avvicinata a un tipo di spettacolarizzazione. Certo. Per esempio, di Mario Desiati ricordiamo il libro Ternitti, pubblicato da Mondadori, dove appunto parlava di questi pugliesi che erano emigrati in terra di Eternit e quindi poi erano tornati ammalandosi. Abbiamo 3 minuti, proprio un giro flash per tutti. Partirei con Gabriella Genisi perché conosciamo già il progetto. Insomma, Lolita Lobosco diventerà un personaggio televisivo, giusto? Sì, c'è in progetto questa fiction di 8 puntate per Rai 1 e siamo ancora in lavorazione. La protagonista sarà Michela Ramazzotti, il regista Riccardo Milani, lo sceneggiatore Ivan Cotroneo. Bene, allora la vedremo in televisione. Donato Carrisi ci guarda sguardo fisso, non vuole dire niente. E vabbè, insomma, il suggeritore diventerà un film, sì o no? Ma sì, ma è quello che dico sempre: tutti i miei libri avranno sicuramente una trasposizione cinematografica. Anche perché sono scritti anche in modo molto cinematografico. Ma anche perché, insomma, così si rischia di smentire un po' la natura dello sceneggiatore che è in me. Io ho cominciato a scrivere così. Già, tu sei anche sceneggiatore televisivo, criminologo, insomma, sei un po' di tutto. Erano, insomma, predestinate. Quando? Non potrò mai dirlo, questo non si può dire, però accadrà. Non ci svela niente, Donato Carrisi. E invece, Francesco Marocco, tu hai qualcosa di cinematografico, televisivo? Ma chi legge il romanzo, insomma, pensa che Ma innamorarsi ad agosto si presti bene ad una trasposizione. Facciamo un appello. C'è la Fandango, insomma, penso che sì, sia poi tu giochi in casa, ideale, insomma, casa editrice e succede. Casa di produzione cinematografica, direi, insomma, che ci siamo. Allora, a me non resta a questo punto che ringraziare per questa puntata particolare che abbiamo intitolato Dalla Puglia con furore, perché siamo alla Fiera del Levante di Bari. Ringrazio Donato Carrisi, scrittore pugliese di Martina Franca e autore di thriller che sono diventati famosissimi in Italia ma anche all'estero, Il Suggeritore, Il Tribunale delle Anime e l'ultimo, che non è proprio un thriller, però insomma ha sempre esattamente, è un noir, ha sempre qualcosa di misterioso, La donna dei fiori di carta, che è uscito a maggio del 2012. Ringrazio anche Gabriella Genisi, autrice di questa trilogia di Lolita Lobosco, Giallo ciliegia, La circonferenza delle arance, Uva noir, tutti pubblicati da Sonzogno, e infine Francesco Marocco con Mai innamorarsi ad agosto, pubblicato da Fandango. Io ringrazio naturalmente anche voi ascoltatori e il pubblico che ci ha seguito qui dalla Fiera del Levante di Bari. Vi ricordo che Il Cacciatore di Libri va in onda normalmente il sabato alle 6:45 del mattino, quindi ahimè vi dovete svegliare presto, o alle 21:05, come sempre presente su www.radio24.it. Una buona serata da Alessandra Tedesco. Il Cacciatore di Libri.